benvenuti a tutti e a tutte. Oggi è il 21 giugno, siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda Rossa, gli 87.9. La trasmissione è Stona Favola, è una bellissima giornata d'estate e io vorrei salutare un po' di persone, visto che siamo addirittura d'arrivo. Allora, volevo salutare in particolar modo tutti i compagni e le compagne detenute, non mollate, noi siamo con voi. E dopo questo piccolo preambolo ne faccio un altro. Volevo salutare con molto affetto il reparto psichiatrico dell'ospedale Sant'Andrea, la dottoressa De Pisa, la dottoressa Calabrò e la mia compagna di stanza Francesca. E adesso dovrei presentarvi il nostro ospite. Possiamo dare un rullo di mantambù? Maestro, ha il nome di un calciatore, ma sì, non lo è. No, lo sono stato però. Tamburo. Ha degli occhi blu bellissimi che quando ti guardano ti ipnotizzano. Dice solo cose geniali e divertentissime sempre. È il più grande comico d'Italia. È un uomo affascinante e nonostante io gli abbia fatto anche un po' di corte, non è servita niente perché a lui gli piace soltanto un'amica mia bionda. Quindi siamo pronti a presentarlo. Abbiamo con noi il grandissimo, superbo, mitico, chi più ne ha più ne metta, Paolo Rossi. Grazie di essere qui, grazie Paolo di essere venuto. Grazie a voi, ho detto troppa roba però. Sei tutto rosso. È il caldo. Ah beh, pensavo che ti avessi messo in imbarazzo. No, sì, un pochino forse. Senti Paolo, grazie ancora per essere venuto da Milano apposta per noi. Ti abbiamo corteggiato tantissimo perché speravamo proprio in questa tua venuta. E alla fine ce l'ho fatta. Dai. E alla fine ce l'hai fatta, io sono stata abbastanza una rompiscatola, no, diciamo, va? No. Tranquillo. Centinaia di telefonate, tranquillo, messaggi. Insomma, leggermente pesante. E niente, se tu sei pronto, possiamo annunciare la favola. Io leggerò una favola di Stefano Benni, che è il racconto del marinaio Matu Maloa, anche se c'è uno pseudonimo, Verman Melville. Questa è. Allora, ditemi voi quando inizio. Se sbaglio, correggetemi. Forza alla favola. Ok. Che io possa bere acqua salata 1000 anni, non toccare più il legno di una nave e morire cadendo da una sedia a dondolo se quello che racconterò non è vero, come è vero che mi chiamo Jim Guinea. Lo giuro sul demonio, in 40 anni che navigo non ho mai visto nulla di simile a quello che accadde al capitano Charlemont. Anni fa mi trovavo nel porto di Cape Heath, nell'Africa del Sud. Ero reduce da un imbarco molto agitato su una baleniera americana, la Holy Moses. Un anno di tempeste, uomini in mare e balene e carogne come predicatori. Per di più, avevo perso un occhio discutendo rasoiate con uno stronzo. Andai perciò da un cinese che aveva tutto il porto in mano, chiedendogli un imbarco un po' tranquillo. «Ce n'è uno liscio come l'olio, Guinea», mi disse ridendo il cinese. «Ma dovrei comprarti un vestito nuovo», mi spiegò tutto. La nave in partenza era la Fidel, una goletta nuova, tirata a lucido, un gioiellino di barca. Trasportava piante rare e animali per giardini zoologici. La comandava un nobiluomo inglese, il capitano Charlemont. Uno strano capitano, a quel che diceva il cinese. Portava con sé in ogni viaggio un guardaroba completo. La sua cabina era detta di chi l'aveva vista più bella di quella dell'ammiraglio Kirai, con stoffe preziose, quadri d'autore e 2 statue di Nettuno in ebano polinesiano che facevano da colonne al letto a baldacchino. La nave era tutta costruita con legni pregiati e non aveva un baglio, un chiodo, un bocchettone che non fosse sfavillante. Il cuoco era francese, gli ufficiali in seconda erano scelti tra i più nobili rampolli della Regia Marina e la paga per i marinai era di 300 guinea in barco, il doppio del normale. Ma tanto lusso non era per tutti. Il capitano voleva marinai degni della Fidel, li voleva alti, di portamento fiero ed elegante. Il suo equipaggio doveva sembrare più un reggimento inglese che una di quelle adunate di ceffi che i porti tropicali conoscono così bene. Per 300 pezzi, disse al cinese, sono pronto ad andare a lezione di buone maniere e a dormire assieme a un barile di rum senza toccarlo. Così andai da un barbiere, che mi scotennò la barba di 6 mesi, mi legai il codino con un nastro giallo e nascosi l'orecchio mutilato sotto un berrettino di lana. Quella notte incontrai due mercanti francesi e con la punta del coltellino alla gola mi feci gentilmente prestare le brache da uno e la giacca dall'altro. Non mi guardai allo specchio la mattina dopo mentre andavo al molo, ma dovevo essere davvero carino, perché tutti si davano di gomito e si voltavano a guardarmi. Quando giunsi alla fila dell'imbarco, beh, mi prese un colpo. Proprio davanti a me c'erano due ex compagni della baleniera, si chiamavano Bakshan e Victor Fernandez, e vi assicuro che avrebbero potuto rapinare una persona solo alzando le sopracciglia del ceffo che avevano. Avevano cercato anche loro di migliorare il loro aspetto. Bakshan, un nero alto quasi due metri, si era procurato un cilindro grigio e una palandrana azzurra che gli arrivava se no a metà coscia. Fernandez aveva rubato degli stivali militari e sfoggiava un gilet di cuoio rabescato sopra una camicia che alla nascita doveva essere stata di seta bianca. Fumavano la pipa soddisfatti e sputavano per terra da veri gentlemen. Appena mi videro, scoppiarono a ridere, quasi quanto risi io vedendo loro. Ragazzi, cosa non si fa per 300 guinee? Aspettavo un po' che la fila avanzasse e dalle facce cupe che vedevamo tornare indietro capimmo che il capitano era davvero molto esigente. Venne infine il nostro turno ed ecco lì il capitano Charlemont, tra due ufficiali piccoletti e luccicanti di raso come colibri. Il capitano invece sembrava una grande foca, vestita tutto di pelle nera, col cappello con una piuma verde e guanti fino al gomito. Aveva il volto bianco come un annegato, incorniciato da lunghi capelli biondi, baffi sottili, accurati, a pizzo e a virgola così ben scolpito che ti veniva voglia di appenderci la giacca. Sembravano un quadro da museo, come una volta ne ho visto uno a Cuba. Scriveva i nostri nomi facendo sventolare una penna d'oca sul registro di bordo e di tanto in tanto tirava tabacco da una tabacchiera d'ostrica Catan. Ecco com'era un nobiluomo inglese. Il primo di noi che si presentò al suo cospetto fu Fernandez. Nome? Chiese il capitano. Victor Emanuel Fernandez, signore. O no, magari fosse un signore. Sono soltanto un povero marinaio, risatina degli ufficiali colibri. Il capitano, spiegò uno di loro, vuol dire che ci devi chiamare signore Zuccone. Signor sì, signor Zuccone. Fernandez non era un prodigio di Galateo, ma era sveglio. Il capitano Charlemont lo guardò dall'alto al basso e poi chiese: qual è stato il tuo ultimo imbarco, marinaio? La Holy Moses, signore, una baleniera, signore. E che lavoro facevi? Io taglio, signore. In che senso? Nel senso, signore, che quando la balena è presa e tirata a bordo, signore, le infiliamo una bella sega nel culo, nel buco del culo, signore, e le tiriamo fuori in animacce le trippe, signore, finché è tutta olio e bistecche, signore. Bel linguaggio colorito, il gentiluomo Fernandez. Charlemont inarcò un po' il sopracciglio ben disegnato e si mise a squadrare il tagliatore. Non sarai per caso tatuato? Non voglio marinai decorati con sconcezze nel mio equipaggio. Oh no, signore, c'ho appena qualcosina, signore. Spogliati e fa vedere, Fernandez. Fernandez si tolse la camicia con un sospiro. Sul torace aveva una sirena con due tette d'arrembaccio. Su un braccio un drago a tre teste che da ogni testa sputava parolacce in cinemanese e malgascio. Sull'altro braccio una sfilza di Mary Ellen, Mary Ann, con cuoricini trafitti e per finire, più sotto, una balena col suo ombelico come occhio. Non imbarcato, avanti un altro, disse il capitano. Fernandez non si disperò, gli fregò la tabacchiera e sparì. Ecco il gentiluomo Bakshan. Il suo nome? Buckingham Shan, signore. Ultimo imbarco? Anch'io la Holy Moses, signore. E cosa facevi? L'arpionatore? Quando la balena era a tiro io facevo il mio dovere, signore. Le mettevo il mio arpione proprio là dove mi era ordinato, signore. Quando Book vuole un vero dandy. Ecco cos'altro sai fare su una nave. Tutto quello che sa fare il demonio, signore. Cioè, tutti i lavori piccoli e grandi che mi vengono ordinati, signore. Se si tratta di lavare il ponte, allora bene. Se si tratta di salire in cofra o cucinare, ma non si tira indietro. Se deve stare al timone, eccomi qui, se mi viene ordinato. Ho capito, capito, disse Charlemont. Lo sentimmo bisbigliare al primo ufficiale. Ha un bel fisico, rivestito, pettinato, farà la sua figura. Imbarcato, disse infine Charlemont. Grazie, signore, disse Buck. E passandomi vicino nella fila mi fece uno sberleffo. Toccava a me. Il tuo nome, marinaio? Jim Guinea, signore. Strano nome. Sono orfano, signore. Non ho conosciuto né padre né madre, ma sono nato in Guinea e questo è quello che io so, signore. Non pretendiamo dei visconti tra i marinai, ma almeno, beh, fatti vedere. Il tuo ultimo imbarco? Non dirmi anche tu, indovinato, signore. Anche tu, arpinatore, scommetto. Beh, non andremo a balene con la Fidel e immagino che tu non sappia far altro che maneggiare il tuo affare. Risatine tra i damerini. Ma che razza di gente è questa? Decido di giocare il tutto per tutto. Io mi intendo anche di piante e animali, signore. Dici davvero? Sì, mi ha allevato uno stregone della tribù Anamande che mi ha insegnato tutto quello che sapeva. Beh, questo cambierebbe le cose, ma non so se crederti. La piuma che ha sul capello è un ororococo, signore. Un uccello che fa le uova ogni 7 anni. Charlemagne e Damerini si consultano e annuiscono. Assunto. Beh, sono veramente stupidi. Uno non può aver navigato le isole del Pacifico senza aver mai visto una piuma di ororococo. In quanto alle uova ogni 7 anni, beh, vabbè, insomma, ci avevo provato, me era andata bene. Il diavolo mi secchi la lingua se so quante uova fa quel maledetto uccello. Partimmo una mattina di giugno. Eravamo schierati sul ponte. Il capitano ci aveva fatto sbarbare e pettinare. Avevamo berretti e stivali nuovi e una giacchetta blu con la scritta in oro, Fidel. Mai visto uno schifo del genere su una nave. Sulla banchina i marinai si rotolavano da ridere e ci lanciavano baci. Che vergogna. Ma per 300 pezzi mi vesto anche da triglia. Il capitano Charlemagne si presentò in alto. Come le sue medaglie, lo sciabolone, affettacavoli, ci controllò un po', mettendo a posto colletti e bottoni. Una mamma! Poi si sedette su una poltroncina in bella posa, col gomito poggiato su un frostino di narvalo. Marinai, disse, so che siete abituati alla disciplina, ma quello che vi chiedo su questa nave non è solo disciplina, è stile. Vi voglio vedere sempre impeccabili, anche nella tempesta. Non c'è oceano che possa far dimenticare a un uomo di essere un gentiluomo. La Fidel è la barca più bella della compagnia Smithson. È conosciuta in tutti i porti del mondo per la sua eleganza e noi ne manterremo alta la fama. Trasportiamo piante e animali rari per il giardino botanico di Londra. Inutile dire che tutto ciò richiede una delicatezza e una cura ben diverse da quelle necessarie per squartare una balena. Dovrete perciò essere degni del Fidel. E guai se vi venissero in mente le vostre usanze marinare, le bravate, le bestemmie e gli scherzi osceni. Su questa nave non succederà nulla che non possa succedere in un salotto inglese. Questo è il mio motto e ora partiamo. Per la gloria della Fidel e per 300 guinee. L'allusione al compenso spianò appena i musi lunghi. Gente che aveva passato tempeste da rimbarci, con un coltello in una mano e l'altra aggrappata alla sartiera, certamente poco entusiasta all'idea di viaggiare su un salotto inglese. Decidemmo di prenderla sul ridere. Sul ponte si ascoltavano discorsi di questo tipo. Vuole per favore il gentiluomo Sean togliere il suo piedone da scimmia dalla mia drizza, acciò che io possa issare la vela? Prego, gentiluomo Guinea, che il demonio l'affoghi per la sua cortesia. Vuole per favore il molto figlio di puttana gentiluomo Macaulay smettere di sputare contro vento la sua fetente saliva baccosa, di modo che la mia divisa non ne venga insozzata? Perché se non smetterà, la mia egregia mano potrebbe lisciarle la dentatura. Nel qual caso, nobiluomo, niente mi impedirebbe di provare la durezza di quello splendido bugliolo sulla sua eccellentissima testa di bastardo. Così la Fidel lasciò il porto verso l'avventura. Non eravamo ancora usciti dal golfo che da sotto coperta uscì un uomo con grandi occhi sporgenti, vestito di nero. Molto cortesemente presentò a tutti noi, uno per uno. Disse di chiamarsi professor Giscard, di essere lo scienziato consulente per il viaggio e di soffrire maledettamente il mal di mare. Per gli occhi sporgenti e per il colore verde fu subito soprannominato il Gecko. E con quest'ultima sorpresa prendemmo il largo mentre Charlemont, a poppa, prendeva il tè. Ma, sospirò il filosofo di bordo, Huysmans, l'olandese. Aspettiamo a disperarci. Non sembra, ma magari è un buon capitano. Huysmans si illudeva. Dopo pochi giorni di navigazione, marinai, ci chiedevamo chi mai avesse insegnato il capitano Charlemont a portare una nave. Sembrava che avesse paura di consumarla. Navigava solo con un vento a 3-4 nodi, con mezza velatura. Appena si alzava un bel vento per far finalmente correre la cavallina, portava la fidella al riparo in qualche rada e aspettava che il vento calasse. Così, per arrivare dal Golfo di Guinea alle isole Biagos, ci mettemmo il doppio del necessario. Ma il capitano non sembrava importasse. Le sue uniche preoccupazioni erano la nostra divisa, gli ottoni della goletta e i cerimoniali dell'alzabandiera. Per calcolare la rotta, lui e i suoi ufficiali colibrì impiegavano intere mattine, mentre noi lo facevamo subito, a occhio, tanto navigavamo vicino a terra. Il cibo era decente, quello sì, turni comodi, ma si rischiava sempre di essere puniti per una bestemmia o per un colletto fuori posto. Un marinaio greco si prese 20 colpi di frusta perché era stato sorpreso a stendere le calze su una sartia. In luglio arrivammo alle isole Cabo Roto. Il capitano Charlemont, attraccò a Hogue Bay con una manovra che un mozzo avrebbe eseguito con più perizia. Ma la sua discesa in alto uniforme, con il colibrì al fianco e Buckingham che gli reggeva l'ombrello, restò nelle leggende locali per molti anni. L'isola era abitata dalla tribù dei Cabu, il cui capo era Matukabu, un mio vecchio amico. Conoscendo io la lingua Cabu, contrattammo con lui per portar via piante rare. Insieme al geco mi recai nella giungla e ci trovammo in mezzo a un vero paradiso naturale. Il geco mi diceva il nome latino delle piante e io gli raccontavo le leggende che avevo udito. Gli raccontai che l'oro gogoro è una pianta carnivora, mangia solo gli animali malati. Per sapere come stanno in salute, gli indigeni passano davanti alla pianta e avvicinano una mano. Se l'oro gogoro ha la zanna, è un brutto segno. Gli dissi che la pianta del pane dà solo un frutto all'anno, ma così buono e delicato che gli uccelli fanno la fila anche un mese per beccarselo, e che l'agua zazai, tritato e bevuto con la luna piena, trasforma l'uomo in un calabrone. Raccogliamo con cura le piante in grandi vani e la sera ci fu un pranzo in nostro onore sotto la tenda del capo Mau. Noi mangiavamo a quattro palmenti. Il capitano Charlemont, invece, tutto schifiltoso, asseggiava appena il cibo e non sembrava per nulla riconoscente di quell'ospitalità. Il capo Mau Cabu mi disse di chiedere al capitano dove sarebbero finite quelle piante, in quale isola e in quale giardino. Quando il capitano rispose che sarebbero state chiuse in una gabbia di vetro, il capitano Mau fu contrariato e disse che voleva sciogliere il contratto. «Di al tuo selvaggio», rispose il capitano, «che quello che abbiamo finora chiesto con cortesia lo possiamo chiedere con i fucili». Naturalmente non tradussi le sue parole sprezzanti, ma dissi a Mau che le piante sarebbero state trattate con ogni cura e sarebbero state portate ai bambini della nostra isola, che non avevano mai visto niente di simile. Il capo Mau scosse dubbioso la testa. Poi volle sapere se il capitano credeva che le cose avessero un'anima. Il capitano, ridendo, spiegò che nel suo paese solo gli uomini avevano un'anima, e forse non tutti. Allora il capitano Mau chiese come faceva il capitano Charlemont a viaggiare sul mare se non credeva che il mare avesse un'anima. Il capitano sembrò piuttosto adirato e non rispose. Il mare ha un'anima che si chiama Matumaloa e lei la conoscerà, disse il capitano Mau. Non voglio perdere altro tempo con questi selvaggi, disse il capitano, e molto scortesemente si alzò. Tornammo alla nave. Durante il tragitto in scialuppa sentì il geco criticare con fermezza il capitano e quello rispondere irosamente: di una cosa sono sicuro, tra la cultura di un gentiluomo inglese e quelle stupide leggende non c'è alcun rapporto possibile. L'unica cosa che ci unisce a questo mare è la ricchezza che possiamo ricavarne per la maggior gloria dell'Inghilterra. La navigazione proseguiva lentamente e il capitano diventava sempre più insopportabile. Le sue fissazioni peggioravano. Lucidava lui stesso ogni notte gli ottoni del ponte. Non appena vedeva una cresta di spuma si metteva a brontolare. Che mare impossibile, che tempo infame, come se le onde dovessero andare a tempo di mazurka per far ballare la sua Fidel. Prese a punirci con ogni pretesto. Un bottone fuori posto, una manovra eseguita come lui diceva, in modo sgraziato. Io ero stato richiesto come aiutante del Gecko e stavo spesso sotto coperta nella giungla umida nascosta nel cuore della nave. Cercavamo di curare le piante, alcune delle quali già guastate dal viaggio. Anche il Gecko conveniva che il capitano era ormai un caso clinico. Passava ore e ore a giocare a scacchi con i colibrì e non appena il ramo della nave gli ribaltava un pezzo, piombava sul ponte e se la prendeva col timoniere. Viaggiavamo ormai solo nella mezza bonaccia, con i nostri colletti ridicolmente inamidati nel caldo tropicale. Una sera, mentre avanzavamo lentissimi sul mare infuocato, Buck disse che non ce la faceva più dalla noia. Prese l'ukulele e si mise a cantare il mezzo marinaio. Mi mangiarono una gamba i cannibali delle Hawaii, un braccio se l'è preso un pesce cane di Shanghai. La corda dell'arpione l'altra gamba si è fregata e un occhio me l'ha tolto una carogna disperata, di pirata, di pirata. Mary Mary, stavolta ritorno davvero, mi manca qualche pezzo ma il cuore è tutto intero. Sarò il tuo marinaio, sarai la mia sposina e mi terrai sul petto dentro una scatolina. Un piranha brasiliano mi portò via un coglione e un altro mi è rimasto nel mare del Giappone. I denti li ho perduti, i capelli non ne ho, la pulce di mare le orecchie mi rosicchiò. Mary Mary, stavolta ritorno davvero, mi manca qualche pezzo ma il cuore è tutto intero. Il ritornello fu interrotto dall'arrivo del capitano Charlemont, livido di rabbia. Eravamo impazziti a cantare quella robaccia sulla Fidel? Doveva una nave inglese far da palcoscenico a queste sconcezze? Prese l'ukulele e lo spaccò sulla murata. Gridò che ne aveva abbastanza delle nostre discipline, che avrebbe fatto cantare la frusta al nostro posto. Stava lì, minaccioso, a gambe larghe, quando la barca ebbe un sobbalzo improvviso, come se avesse toccato un banco di sabbia. Il capitano finì disteso per terra e, dato che il ponte era appena stato insaponato, si fece mezza nave scivolando come una foca sul ghiaccio. Nessuno riuscì a non ridere e alla nostra risata si accompagnò anche uno strano acutissimo rumore. Il capitano si alzò furibondo e ordinò di mettere Buckingham in ferri per 3 giorni. Cercò di riprendere la dignità del comando urlando: controllate con lo scandaglio, ci deve essere un banco di sabbia. Nessun banco, rise Buckingham mentre lo portavano via. È Matumaloa, comandante. Portate via quel maledetto negro, disse il capitano. Buttammo lo scandaglio. C'erano 600 piedi di fondale. Qualsiasi cosa la nave avesse urtato non era certo un banco. Quella notte ero di guardia. La luna illuminava il mare per miglia e miglia. Era una notte in cui, come usava dire Buckingham, anche le fidanzate brutte diventano belle. Me ne stavo lì a parlare col Gecko e al silenzio del mare si udiva soltanto una nenia voodoo che Buck cantava dalla sua cella. Con nostra sorpresa vedemmo il capitano Charlemont salire in coperta. Forse non riusciva a dormire per il caldo. Era senza uniforme, con la camicia aperta sul petto e la chioma bionda bagnata di sudore. Certo non l'avrebbero ritratto così nella galleria di famiglia, ma più di una fanciulla inglese, vedendolo, avrebbe sospirato. Il capitano restò a lungo assorto, guardando il mare, mentre la bonaccia avvolgeva il cuore e l'anima in una palude calda. Erano le 2. Mezzo miglio a babordo vedemmo qualcosa di strano. Il mare era increspato, come se qualcosa di terribile lo avesse spaventato. «Vedi tu quello che vedo io?» chiese Icemans. «Lo vedo», disse l'olandese. «Ehi, voi due!» disse il capitano, sentendoci parlottare preoccupati. «Cosa vi succede?» «Credo, capitano», dissi io, «di aver avvistato una balena». «Oh, oh!» rise il capitano. «Bella razza di marinai! Non ci sono balene su questa rotta!» Per una volta aveva ragione lui. Non avevamo mai incontrato una balena in quella zona e ora il mare sembrava di nuovo tranquillo. Ma il mio istinto di arpionatore mi diceva che era una tranquillità solo apparente. E infatti il mare ribollì e si aprì proprio davanti a noi e spuntò la testa di Matu Maloa. Era il più grosso capodoglio che avessi mai visto, almeno 200 piedi. Aveva la testa grigia e rossastra, piena di taglie e protuberanze. Una vera montagna tormentata e la mandibola avrebbe potuto tagliare la nave in due come una forbice. L'occhio piccolo, a pelo d'acqua, scrutò un attimo la nave, mentre noi stavamo col fiato sospeso. Poi Matu Maloa si girò su un fianco e, ci crediate o no, fissò lo sguardo del capitano Charlemont e dopo un attimo gli fece l'occhiolino. Il capitano guardava terrorizzato. Alternativamente noi e la balena, era chiaro che non aveva la minima idea di cosa si dovesse fare, e vedendoci immobili, stava immobile anche lui. Matu Maloa lo guardò ancora, poi diede un leggero colpo di coda e chiamò il capitano. Un suono melodioso, come un violino sottomarino. Avevo spesso sentito parlare della voce delle balene, ma era la prima volta che la sentivo. «Cosa sta succedendo, marinai?» disse il capitano Charlemont, indietreggiando verso il centro della nave. Matu Maloa ruotò in aria la coda e si inabissò, poi risalì in tutta la sua mole e fece una virata elegantissima, spruzzando appena con un getto d'acqua la nave. Poi si mise a remare con la coda e uscì col corpo fuori dall'acqua, come un delfino. Sembrava uno scoglio altissimo, tutto pieno di alghe e incrostazioni, con i segni degli arpioni sui fianchi. A quella vista, il capitano corse a rintanarsi in cabina. Matu Maloa cessò subito le sue evoluzioni e scomparve. Poco dopo il capitano ci convocò. Era visibilmente nervoso. Tormentava il suo spadino di narvalo. La sua divisa era alquanto in disordine. «Guinea, Icemans», disse, «mi potete spiegare il comportamento di quella balena? Voleva forse attaccarci?» «Sicuramente no», disse Icemans, lanciandomi un'occhiata d'intesa. «Quindi voleva giocare?» «In un certo senso». «In quale senso?» «Beh, se devo proprio dirlo, signore, la balena era in amore». Il capitano Charlemont annichilì. «Vuole dire che sicuramente conosco il canto delle balene e anche quelle loro evoluzioni. Fanno così quando sono innamorate». «Volete dire che è innamorata della nostra nave?» Io e Icemans esitammo perplessi. «Più o meno così», disse Icemans. Seguì un lungo silenzio. Poi il capitano disse con un fil di voce: «Marinaio Guinea, quella balena è un maschio o una femmina?» «Non lo so, signore», risposi. Il giorno dopo, sulla Fidel, la notizia che una balena si era innamoratissima del capitano Charlemont si diffuse. Se mi è consentito un facile gioco di parole, in un baleno. Qualcuno rideva, qualcuno sembrava preoccupato. Chi conosce le intenzioni di una balena innamorata? Tutti però erano d'accordo su un punto: Matu Maloa sarebbe certamente riapparso. Il che avvenne verso sera. Il capitano, nervosissimo, era venuto in coperta e lanciava ordini in tutte le direzioni. Era pallido, sembrava non aver chiuso occhio. Proprio mentre gridava qualcosa a posizione delle vedette, ecco a poppa apparire il capodoglio. Aveva sulla testa un gran pennacchio di alghe verdi. ci guardò con l'occhietto furbo e cominciò a emettere suoni striduli. Muovendo qua là il capoccione, faceva il verso al capitano. Se Chalamon si muoveva verso Purua strillando, lui faceva altrettanto. Se andava a poppa incespicando nel cordame, anche la balena faceva finta di inciampare nel mare e comicamente strillava e si rivoltava sulla pancia scuotendo il suo pennacchio di alghe, finché il capitano Chalamon, esasperato, si fermò ansimante gridando: «Maledetta bestia! Cosa vuoi da me?» Per tutta risposta, Matumaloa lo spruzzò con il suo soffione e si mise a strillare divertito. Ma ora il capitano ebbe uno scatto d'ira, sfilò un rampone da una scialuppa e lo tirò contro la balena. Naturalmente non intaccò neanche la sua pellaccia, ma Matumaloa sembrò molto turbata da quel gesto. Si allontanò a grandi salti, poi si girò, prese la rincorsa e puntò dritto contro la nave. Urlammo di terrore, già qualcuno metteva mano alle scialuppe, ma a pochi metri dalla Fidel la balena si inabissò e sentimmo la sua schiena ruvida grattare la chiglia. Quando uscì dall'altra parte lanciò un lamento lunghissimo da innamorato offeso e scomparve. Quella sera un gruppo di noi marinai tenne un conciliabolo in Cambusa. Buckingham diceva che eravamo in pericolo. La balena non avrebbe sopportato di essere respinta. Icemond diceva che capiva le ragioni della balena, ma anche quelle del capitano. Cosa avrebbe dovuto fare? Invitarla a cena? Io dissi mai che nella mia vita di baleniere avevo visto una cosa simile. E quindi l'unica cosa da fare era aspettare. Quella notte la balena tornò. Sentimmo tutti la sua serenata al capitano e le urla del capitano, prima adirate, poi supplichevoli. Tornò tutte le notti, continuando a seguire la nave sulla rotta verso le Iacos, finché una sera ci fermammo in una rada per fare il pieno d'acqua dolce. Non c'erano più di 20 piedi di fondo, ma la balena arrivò ugualmente. Il suo muso era quasi appoggiato alla nave. Cantò fino alle 3, finché il capitano non uscì dalla cabina. Ero di guardia e potei sentire tutto ciò che disse. Disse: «Matumaloa», diceva sottovoce a Chalamon, «cerca di capire la mia situazione. Io faccio parte di un'antica e onorata famiglia inglese. I maschi della mia famiglia hanno sempre ed esclusivamente sposato donne con almeno un quarto di discendenza reale. Come pensi che potrei dare l'annuncio che mi sono fidanzato con una balena? Lo so, tu sei la regina del mare, ma i nostri mondi sono diversi. Io non respiro sott'acqua e tu ti annoieresti al cricket. Ti prego, lasciami in pace. Pensa che scandalo se questo venisse risaputo a Londra». Matumaloa ascoltò e modulò un nuovo richiamo d'amore per il suo capitano. E il capitano: «E poi, insomma, non so neanche se sei maschio o femmina. Tra noi una relazione è impossibile. E come ultima cosa, io sono fidanzato». A quelle parole Matumaloa smise di cantare. Girò l'immensa testa sott'acqua, si avvitò e sparì. Non la vedemmo più. Come il diavolo volle, eravamo ormai a pochi giorni di navigazione dalla meta. Il capitano Chalamon non era più uscito da sotto coperta e aveva lasciato il comando a Icemans. La Fidèle aveva viaggiato spedita e noi dell'equipaggio già fantasticavamo su come avremmo speso nel modo più rapido le inutili 300 guinee. Quando ormai le coste inglesi erano in vista, il capitano mi mandò a chiamare. Era nella Serra delle Piante, su una sedia di vimini, in mezzo a quella giungla umida, densa di vapori velenosi e di insetti. Nessuno avrebbe riconosciuto in lui il perfetto nobiluomo inglese salpato dal porto di Cape Heath. Aveva la barba lunga, i capelli arruffati e al posto della divisa una giacca da camera stazzonata. Puzzava di rum. Marinaio Guinea, disse, ho un patto da proporti. Dovete giurare solennemente, tu e gli altri marinai, che non una parola su ciò che avete visto verrà pronunciata a terra. Sono pronto ad aggiungere altre 100 guinee alla paga, ma devi convincere gli altri a non lasciarsi sfuggire neanche una cena alla balena. Credo, signor capitano, dissi, che 100 guinee siano un argomento che chiuderà la bocca a tutti come colla di pesce. Quindi, disse Charlemont alzandosi vacillante, non è esistita nessuna balena. O capodoglio dalla voce melodiosa, è stato un delirio causato dal caldo e dalle notti tropicali. Vado a riprendere il mio posto nella buona società del mio paese. Era un'impressione, pronunciando le parole buona società, si avvertiva nella voce del capitano un leggero disgusto. La sera del nostro arrivo al porto di Londra, la compagnia Smithson aveva fatto le cose in grande. C'erano il presidente, il vicepresidente, il ministro dell'agricoltura, tutta la facoltà di botanica, zootanica e zoologia dell'università. C'erano le loro signore, uno svolazzare di sottane bianche e rosa come meduse, uno rondar di ombrellini. Nell'attesa della Fidel, per la verità, si era verificato uno strano episodio. Dal mare era spuntato un uomo completamente vestito, con una gardena all'occhiello. Si era arrampicato sul molo, aveva rifiutato ogni aiuto e si era allontanato di corsa, come se temesse un pericolo imminente. Ma il clima di festa fu subito ristabilito dalla banda che suonava Thanks for the Beautiful Roses. Un plotone di guardie scelte si squagliava marzialmente sotto il sole. Tra i presenti il padre e la madre del capitano Charlemont, nonché la sua fidanzata, Lady Hayley Compact, marchesina di Sunbury, in completo albicocca, il volto incorniciato da nobili orecchie da lepre. Gli ottoni suonarono più forte, facendo vibrare le assi del molo, quando la Fidel, con perfetta manovra, non comandava Charlemont, virò dentro il canale e iniziò a costare. I piccoli binocoli di madreperla passavano da un polsino inamidato a una manina ingioiellata. E presto fu visibile a prua il capitano Charlemont, col bel volto che il mare non aveva minimamente scalfitto. Pallido era partito, pallido ritornava. Il cuore dei suoi genitori vibrò di orgoglio, e anche quello della fidanzata, malgrado ciò fosse alquanto plebeo, diede piccoli segni di accelerazione, e tutti noi, schierati in divisa, ci sentivamo per un giorno parte della parte migliore del paese, della sua storia e della sua botanica. La Fidel ancorò vicino al molo e calammo le scialuppe. Prima salì il capitano, insieme a me e Buckingham, che reggeva un meraviglioso esemplare di palma con la bandiera inglese. Il capitano fu il primo a salire la scaletta del molo e a stringere la mano al ministro. Subito dopo vedi Lady Hayley Compact, e dimenticando per un attimo la consuetudine, invece da baciarle la mano, l'abbracciò. Mentre i due giovani stavano stretti sotto l'occhio benevolo delle nobili famiglie, la banda intonò Together, ma suonava in modo stonato e sgradevole. «Cos'è questo strazio?» urlò il padre Charlemont. «Che cosa vi succede?» «Chiediamo scusa», disse il direttore, «ma non riusciamo a suonare. C'è una voce sgraziata che si è unita a noi. E poi il molo dondola troppo!» Era vero. Il molo stava cigolando paurosamente ed era chiaramente udibile una voce sgraziata, non umana, che faceva verso le note di Together. «E lui!» gridò Buckingham. «È arrivato fin qui!» Proprio in quel momento un gran colpo di coda di Matumaloa colpì un pilone del molo, che si inclinò paurosamente. La balena, folle di gelosia, si lanciò a testa bassa contro gli altri piloni. Volarono schegge di assi e ombrellini, lanciando urla di sgomento. Tutti cercarono scampo, chi fuggendo verso terra, chi lanciandosi in acqua. Il molo stava cedendo pezzo per pezzo e Matumaloa continuava a prenderlo a testate, senza che le fucilate delle guardie riuscissero neppure a scalfirlo. Finirono in acqua marchesi, botanici e suonatori d'oboe, finché il capodoglio arrivò all'ultimo pezzo di molo rimasto in piedi, dove stava Charlemont stretto alla fidanzata. «Scappa!» disse il capitano, spingendo Lady Hayley lontano da sé. Subito dopo precipitò Alcuni dicono si tuffò sulla schiena del mostro, che senza inabissarsi nuotò via tutta forza. Quando sparì l'orizzonte, il capitano sembrava un uccellino sulla schiena di un elefante. La storia potrebbe finire qui. Inutile dire che lo scandalo fu grande, perché non è cosa di tutti i giorni che una balena rapisca, consenziente o non consenziente, un rampollo della nobiltà inglese. Dopo 2 mesi, il capitano Charlemont fu dichiarato defunto a tutti gli effetti, e sulla sua tomba di famiglia, Glen Roll, sta scritto: il suo nobile cuore rapì la furia del Leviatano. Se è così, amen. Ma io preferisco credere a un mio amico antillano che, di ritorno da un viaggio, mi raccontò che in un'isola del Celebes gli indigeni adorano una strana divinità che chiamano Charmaloa, e mi mostrò una statuetta. È la statuetta di una balena che ha sul dorso una figurina più piccola, con un cappellino, con una penna verde. Matumaloa, dal porto di Capiz, stava per partire Fidel, la nave più bella ed esclusiva che Jimmy Guinea avesse mai visto. Bene, bellissima questa favola, meraviglioso anche l'accompagnamento musicale di David Shakerle. Anche oggi grazie, sei in vacanza da oggi, sei contento? Però non è detto che l'anno prossimo rincominciamo, eh? Stai sempre sull'attenti, tu, che non si sa mai. Grazie a Paolo, grazie, che ha letto questa favola, beh, bellissima. Io non la conoscevo, ce l'ha suggerita Federico, una nostra ascoltatrice, che, di cui non mi ricordo più il nome, ma insomma è stato un gran suggerimento, è stata brava a farcela conoscere. Sì. Faccio l'ultimo saluto, posso? Veloce? Volevo tanto salutare la mia figlioletta Fiore, che oggi compie 7 anni. Tanti auguri, Fiore, buon compleanno. Oh. Oh, dopo questa cosa smelenza, passo a Paolo, al quale voglio fare un po' di domande. Aspetta, che mi sia addormentato una gamba mentre leggevo. Sì. Ti giuro. Vuoi la mia sedia? No, adesso batto, se sentite un rumore. Adesso fa un po' di tip tap. Non riuscivo più a muovermi leggendo, però. Senti, Paolo, volevo domandarti: la maggior parte dei comici è fatta da uomini. Sembra che quasi ci sia un'oligarchia fatta apposta per non far partecipare le donne. È vero? È così? Oh, sì, sono inutile dire che sono di più gli uomini. Però questo ultimamente non è vero, perché, per dire, nei laboratori teatrali che ci sono a Milano, quindi alternativi a un certo tipo di comicità commerciale, ci sono molte donne. Non dico che raggiungono lo stesso numero, però ce ne sono parecchie. Se pensi che un paio di centinaia di anni fa recitavano solo gli uomini, e gli attori venivano seppelliti in terra sconsacrata, qualche conquista è stata fatta. Sì, e gli attori venivano vestiti da donne. Sì, nei tempi di Shakespeare, sì. Sì. Senti, invece non tutti sanno che Paolo Rossi ha 3 figli. Sì. Uno è un promettente autore e regista. Una, sì, non la diciamo perché... No, sì. Diciamo perché c'è un piccolo problema di cui abbiamo parlato, tra, certo, di noi in famiglia. E non riesco a sentirla, ma però va bene. Mm. E l'altro è piccolo, però ha imparato a suonare il sassofono, mi no, pare. No, il basso. Il basso, cioè uno che come, ha 8 anni, suona il come basso, Jimi Hendrix. No, come Jacob Pastorius. Ecco, e quindi diciamo, sei dei figli... Spero che faccia una vita più sana di Jacob Pastorius. Beh, sì. Speriamo tutti. Sicuramente hai. Che faccio? No, la ti chiedo una sigaretta. Certo. Se l'è meritata. Sigaretta. E, insomma, è bello essere padre di 3 figli così dotati. Non hai paura forse che un giorno, seguendo le tue orme, diventino ancora più bravi di te? Sei un po' geloso? No, anche perché nessuno fa l'attore comico. No, però... no, almeno per adesso, non so il piccolino. Beh, ma... il tuo figlio, quello che si occupa di cinema, che non mi ricordo come si chiama. Si chiama Davide. Ha una vena comica molto forte per le cose che ho visto. Però sta più dietro la... alla macchina da presa. Però vedi, io ho sempre avuto una passione per le compagnie di teatro popolare, che solitamente erano formate da famiglie. Vorrei ricordare che gli attori hanno introdotto prima della società civile il divorzio, il capocomicato delle donne, se le donne se la meritavano, tipo Isabella Andreini era una capocomico. I gay hanno sempre lavorato con noi. Problemi di alcol e di droga sappiamo come superarli meglio che in qualsiasi altro ambiente. Che altro devo dire ancora? E quando c'erano queste famiglie, la famiglia allargata per forza. Guarda Molière, prima ha sposato la madre, poi ha sposato la figlia, si è allargata la famiglia. Quindi, ha fatto un bel casino. Sì, sì, sì. Però avendo quella provenienza non ho nessuna gelosia, anzi sono orgoglioso. Senti, ti faccio una domanda particolata, almeno a me sembra articolata, poi non lo so, magari non lo è. È molto articolato. È molto, sai che per aspetta un po', non lo so. Ecco, sai che per noi è stato molto importante che tu venissi qua. Sì. Certo, ho fatto tutta quella introduzione, no? che sei bravo, eccetera. Ma non è stato tanto importante, non tanto perché sei un comico famoso, un grande artista, ma perché da sempre, da quando io ti ho conosciuto, quando facevi Sulla Testa, o Giù la Testa? Sulla testa. Hai sempre mostrato un aspetto umano che tutti, almeno io, ho sentito e ho condiviso. Che tutti noi abbiamo, però non tutti ce l'abbiamo questo aspetto umano, eh? Alcuni non ce l'hanno, secondo me. E tu sei una persona che quando parla, quando si esprime, ti arrabbi, tiri fuori un sacco di sentimenti, di contraddizioni, e sei forte, sei molto presente, giusto, all'interno di episodi, all'interno di azioni. Ora, quale azione vorresti fare se potessi scegliere, a parte uccidere me? No, a parte la domanda è articolata. Sì. No, ma va bene, benissimo. No, io questa cosa non lo so, devo essere sincero. Non tutti nella mia vita privata direbbero queste cose. Nella vita pubblica forse tiro fuori più umanità che nella vita privata. Non che sono disumano nella vita privata, però diciamo che è più facile. Io quello che sto facendo adesso, io ho preso delle decisioni tre anni fa, ho cominciato a montare dei laboratori, mi sono reso autonomo dal mio vecchio produttore, pagando di persona parecchio, e vorrei continuare a resistere su questo punto. Sono delle scelte che ho fatto perché credo che c'è un minimo di coerenza tra quello che fai sul palco e quello che fai giù, ci debba essere. C'è sempre qualcosa di incoerente. Adesso vi dico una cosa per dire: quando io sono in tournée, a me piacciono i begli alberghi. quando qualcuno all'inizio sei comunista e non puoi andare in belli alberghi, devi andare nella pensione. No, c'è una regola che mi dissero i vecchi attori. Se vuoi resistere fisicamente nel lavoro di tournée, non risparmiare sugli alberghi e sui ristoranti. O quantomeno, cerca poi col tempo di informarti, che poi trovi l'albergo che non è 5 stelle, che però è familiare, comodo. Insomma, accogliente. Cerca di trattarti bene. Sì, poi dopo, quando qualcuno a volte all'inizio mi diceva, però fai il comunista e vai nel... Io dicevo, no, io, a parte che io sono per l'anarchia 5 stelle, e che comunque io sono l'avanguardia che va a perlustrare questi luoghi, esatto, per capire quando il popolo se ne approprierà, come adattarsi, insomma. Fantastico. Io avrei voluto non fare nessuna domanda, avrei voluto dire a Paolo: senti Paolo, parla tu, vai a ruota libera. Forse sarebbe stato meglio, perché quando lo lasci andare, capito? Lui proprio ti si aprono dei mondi. Senti, è vero che il tuo grande successo, mo non lo so se è vero, ma insomma mi è sembrato così, è stato grazie al grandissimo Giampiero Solari? Beh, è stato ed è tuttora, perché stiamo facendo ancora cose assieme, è stato un mio compagno, forse il compagno di viaggio più stimolante. La mia fortuna in realtà è che io ho inanellato una serie di maestri spaventosi nei primi anni di carriera. Tipo? Allora, Dario Fo, Giorgio Strehler, Carlo Cecchi, Giorgio Gaber, Enzo Iannacci e tutti i comici del derby, quando il derby non era ancora commerciale ma era una palestra di follia. Quindi lui è stato il più ricco compagno di viaggio sicuramente. I maestri, chiaramente è stata una fortuna, perché poi a quel tempo io facevo la scuola, i corsi serali dell'Accademia d'Arte Drammatica, e se tu accettavi un lavoro venivi, come dire, espulso. C'è anche un motivo dietro questa regola, che se tu vai a lavorare, spesso chi insegna nelle accademie non lavora in teatro, no? E insegna perché non lavora, per cui se tu vai a lavorare e torni rischi di saperne più del tuo insegnante, per cui c'è questa piccola regola. Una regola un po' fascista. E dopodiché è venuto Dario Fo, mi ha preso per un lavoro e io ho accettato il lavoro. Quanti anni avevi? Oh no, 24, 23, 24. Che bello, che emozione. 23, 24 anni, sì. Devo dire che gli unici, quelli che sono andati via hanno continuato a lavorare, quelli che si sono presi il diploma fanno tutti altri mestieri. Senti, dici qualcosa, l'ultime due domande, di quelle mie sceme. Sì. Dici qualcosa di te. Di me? Sì. Ma questa è una domanda complicata, come posso dire qualcosa così, di così, così, gioca. Gioca. Beh, una cosa che ti dico, la cosa che ho pensato ieri sera. Ieri sera abbiamo fatto l'ultima replica del Mistero Buffo Pop 2.0, dopo 200 repliche, poi l'ultima è venuta la 200esima. E nonostante il successo, io ho goduto per l'esito della tournée, dello spettacolo. Mi sono rattristato per la fine della tournée, dello spettacolo. Abbiamo festeggiato, ma subito dopo io mi sono chiesto come posso migliorare, perché credo che la cosa più importante sia nel nostro mestiere, è un mestiere che dove non si finisce mai di imparare, e a me non piace capitalizzare, mi piace rimettere tutto in gioco. Se io vado a giocare rialzo sempre la posta, perché così è più divertente. Poi si può cadere, si può perdere, no, vabbè. Senti, invece adesso dici qualcosa su di noi. E poi ho finito, non dico più niente. Niente, vi guardavo Sottecchi mentre leggevo, soprattutto a un certo punto guardavo, dice, chissà se si accorgono che se mi è addormentata una gamba. Perché ero seduto appollaiato e non so come l'avevo messa. A un certo punto dico, non sento più la gamba. Aiuto. Però va bene, però in teatro tutto si usa, anche alla radio. Va bene, cosa vuoi chiedere? Qualcosa? No, pensavo che ci dicevi una cosa su di noi un po' più bella, un po' più appassionata, che siamo bravissimi, io sono bellissima, che allora, David Schacher è il più bravo maestro di voi tutti i tempi, che Federico è il più grande regista della Tenda Rossa. Sì, però io sono, ecco, ti dico una cosa di me, ti rispondo alla precedente, io sono timido in realtà. Ma va. Stai scherzando? È vero. Pesantemente. Guarda che qua ne sono passati, allora, i timidi, allora, tu non sei tra quelli. Pensa che da bambino il primo soprannome che ho avuto era Taciturno Joe. Pensa dopo cosa è successo. Senti Paolo, un'ultima cosa, io e Federico obblighiamo sempre tutti quanti a fare delle piccole dichiarazioni di affetto. Beh, sì. E di amore verso questa radio. Nel senso, con Paolo, Paolo ci siamo sentiti più volte, sì, sì. Su questa, però telefonicamente in questa... Sì, infatti è la prima volta mi pare che vengo qui. Esatto. Ed era proprio come me la immaginavo. Sì. Eh beh sì, tra l'altro è una delle radio storiche, certo. Insomma, delle cosiddette radio libere, nascerà, certo. Nel 1977, per cui ci piacerebbe insomma che tu ci dessi un tuo pensiero su questo, su una radio come questa, come Radio Onda Rossa. Più che un pensiero dico una cosa, facciamo che quando torno a Roma, che adesso ci torno anche abbastanza spesso, vi vengo a trovare, perché mi sono trovato bene, la timidezza l'ho visto. Bene. Un'altra cosa, allora, invece che farle telefonicamente, certo, certo, che è più divertente. È un'altra cosa. Sì, sì, è un'altra cosa. Paolo, abbiamo fatto una bella conversazione a Festa Ambiente, sì. Qualche tempo fa, ne uscì fuori pure una bellissima recensione, sì, una bella mia intervista. Una bella intervista, sì. E ho avuto modo poi di rincontrarti, di rivederti al Teatro Vittoria qui a Roma, sì. E tra l'altro mi è rimasto tanto impresso quello striscione sul fondo palco che recitava "Se non sai dove vai non ti perderai mai", che sì. Secondo me è grandioso, sì, sì. È una sintesi perfetta. E poi per il laboratorio che hai curato al Teatro Valle Occupato, insomma mi è sembrato che tu negli ultimi tempi stia recuperando un gusto e una gioia del tuo lavoro. Sì, questo è verissimo, perché ho avuto un periodo diciamo non buono, ma perché è un mestiere comunque non facile, ti puoi perdere facilmente se qualcuno ti dice dove devi andare, e a volte per pigrizia o per stanchezza incominci a delegare, per cui dopo quel periodo, ripeto, io ho preso delle decisioni molto forti, rischiose da un punto di vista economico, da un punto di vista umano, da un punto di vista psicologico, perché comunque avevo un rapporto con un produttore da ventennale, però io sentivo che su quella strada non andavo più da nessuna parte e in qualche modo dovevo perdermi. Poi chiaramente io passo da fare laboratori nei teatri occupati, a Sky, a Rai 3, a un agriturismo dove ho fatto spettacolo vicino a Reggio Emilia, in un circolo Arci come in un teatro a 5 stelle, diciamo. Però quantomeno sono io che decido dove e come andare. Poi so anche in questo modo come permettermi di fare certe cose. Mm-hmm. E tengo sempre un atteggiamento distaccato, nel senso che cerco sempre di essere più critico adesso e farmi meno coinvolgere. Mm-hmm. Come diceva Brecht, cerco colui che dubita, che poi per un comico è una buona regola. Mm-hmm. Che facciamo? Ci diamo appuntamento per la prossima stagione, Ottavio, visto che oggi è il gran finale, l'ultima puntata di Stona Faula, almeno per l'edizione di questa. Beh, sono state delle puntate bellissime, accompagnate da tutti voi, da David, da te Federico, da tutti i nostri ospiti che hanno aderito, sono stati tantissimi, abbiamo avuto una grande feedback, mi sembra che sia andata bene, è stata una bellissima esperienza per me, e non so se la ripeterò l'anno prossimo, però ci penseremo e magari verrà fuori qualcosa di nuovo. Intanto saluto tutti quanti, ringrazio tutti quanti, ringrazio la radio che mi ha dato questa opportunità enorme di farla e di esserci, e spero ancora di essere con voi anche l'anno prossimo. Ciao papà, tutti. Ciao Mario. Paolo, dimmi. Grazie, complimenti, ti vogliamo di nuovo con noi. Sì, ci vediamo meglio dal vivo che al telefono, lo ripeto. Un abbraccio. Prego. Ciao Davide. Ciao.